Zanzara. Estate. Con Alessio Maurizi. Buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori, 18.05 fino alle 20.30, l'orario della Zanzara estate fino ad oggi, poi da lunedì ripartirà l'orario canonico, credo, dalle 18.30, insieme a sempre dalle 18, 800 24 00 24, mi correggono dalla regia, Cristian Goldoni, Laura Faggin in redazione, Valeria Bernardi in regia, cominciamo subito e stasera vogliamo cominciare con un editoriale politico, cioè vogliamo mettere insieme un po' di cose, un po' di dichiarazioni, un po' di fatti forse proprio per niente purtroppo, che ruotano attorno a questa fase estiva del dibattito politico. Questo è il ballo del qua qua ed il papero che sa fare solo qua qua qua più qua qua qua. Mamma papero papà con le mani fa qua qua e una piuma vola già di qua e di là. Le ginocchia piega un po', poi scodinzola così. Beh, insomma, il qua qua qua ci sta, no? Parliamo di politica, quindi qua qua qua ci sta. No, ci sta prima di tutto perché su questa cosa della riforma della legge elettorale i partiti fanno un po' come le papere che si avvicinano, poi tu fai buh e loro vanno via piano piano piano piano. Quindi si fa la riforma elettorale, non si fa, siamo vicini all'accordo, non siamo vicini all'accordo, non siamo più vicini all'accordo, ieri eravamo vicini all'accordo, ma il motivo per cui abbiamo scelto questa canzone in realtà è un altro, è per rendere omaggio alla querelle politica dell'estate in Puglia, almeno tra la giunta Vendola, la polemica ambientale, e Romina Power e Albano. Il fatto è che Romina ha scritto una lettera a Vendola qualche giorno fa, lo saprete, ha risposto poi l'assessore, perché non vuole che vengano scaricate le acque dei depuratori nel mare di Manduria. E l'assessore ha detto: lei si occupi del qua qua e lasci perdere. Allora, poi lei ha detto: beh, insomma, perché ci tratta così? Albano è sceso in difesa dell'ex moglie. Insomma, di questo si parla in Puglia. Ma torniamo alla questione politica, tutta politica. Legge elettorale, Cicchitto. Dobbiamo avere la consapevolezza che una volta che si definisce un'intesa, e questa ancora non c'è, questa poi dovrà essere discussa dai partiti, dai gruppi parlamentari e specialmente nel decisivo confronto prima in Senato e poi alla Camera. La Torre. L'accordo sulla legge elettorale non c'è, la legge elettorale si farà, si è intrapresa la giusta strada, ma ci sono ancora alcune cose e non marginali da definire. Si è intrapresa la giusta strada, ieri qualcuno diceva tipo Letta, l'accordo c'è, oggi l'accordo non c'è. La giusta strada in cosa consiste? L'abbiamo chiesto ieri e ce l'ha spiegato benissimo il professor Roberto Dalimonte, che prima di tutto ha delineato quella che si prospetta come una soluzione greca. La differenza è che prima delle ferie estive il premio sarebbe stato dato anche alla coalizione, mentre adesso invece sembra che si siano messi d'accordo sul fatto che il premio viene dato solo al primo partito. Tra l'altro, si è detto per inciso, questa è la soluzione greca. Cioè, ops, con questa ci dobbiamo preoccupare. Questo adesso io lo dico così. Questa è il sistema elettorale greco. Il sistema elettorale alla greca, avevamo sentito di tutto, modello francese, modello tedesco, modello spagnolo, ma il modello greco ci mancava. A cosa serve questo modello, secondo il professor Dalimonte, un serio studioso di cose politiche, di sistema politico, editorialista del Sole 24 Ore? Serve, secondo lui, dice chiaramente, a prefigurare una nuova grossa coalizione anche dopo le elezioni. Se uno ritiene che la grande coalizione, cioè la prosecuzione dell'attuale strana maggioranza, sia un fatto positivo per il Paese, forse questa legge elettorale è quella che potrebbe portare a questo esito. E qualche indizio in giro qua e là c'è. Per esempio il segretario della CISL Bonanni in questi giorni ha detto già due volte che non vede altri statisti che Monti, cioè la riproposizione della grande coalizione. Bonanni, che ha cambiato evidentemente opinione visto che in passato aveva criticato duramente l'operazione del governo Monti. Sentiamo Bonanni. Non mi pare che in momenti così tormentati ci siano alle viste statisti, persone di grande personalità e di grande prestigio e di grandi garanzie come Monti. Parallelamente a tutto ciò si discute e si continuano a fare domande ai politici sulla cosiddetta Cosa Bianca. Bonanni ne farebbe parte forse anche il ministro Passera. Oggi la Fornero ha detto no, io non mi candido, quindi lei è fuori dai giochi. Una Cosa Bianca che per Lupi del PDL è fuori dal mondo. In questi giorni credo che sia tutti i tuoi amici che ti seguono su Forcafé e quelli che seguono me appunto su Facebook, sulla rete, hanno assistito a questo dibattito che sembra fuori dal mondo sulla Cosa Bianca, sul partito dei cattolici, il ritorno al grande centro. Io credo che la sfida che abbiamo davanti tutti noi è una sfida affascinante, è quella nel Popolo della Libertà, cioè in un partito che vede laici e cattolici insieme, socialisti, gente che viene dalla destra moderata, dalla Democrazia Cristiana, affrontare la vera sfida di questi giorni. Beh, Passera l'ha detto chiaramente, cioè non ha detto che vuol far politica, però insomma ha detto che di tornare in banca non se ne parla, di tornare alla sua vecchia occupazione, viene dato impegnato in un progetto politico. Invece oggi la Fornero ha detto no, io non mi candido. Non intendo candidarmi alle prossime elezioni. Io ho fatto il mio compito delle vacanze, l'idea di magari legare la decontribuzione alla presentazione di un bilancio sul capitale umano potrebbe, credo, essere un'idea buona. Ah, e poi dimenticavamo, c'è l'ottimismo del governo riunito, ministri riuniti stanno uscendo alla spicciolata a questo Consiglio dei Ministri da quale non ci saranno decisioni, però si è discusso di misure per la crescita, hanno fatto tutti i compiti a casa, non solo la Fornero, hanno presentato al Presidente del Consiglio le misure che in ogni settore si possono proporre di qua a settembre per lo sviluppo, per la crescita. Il ministro degli esteri Terzi, l'ottimismo. Era importante per me oggi in Consiglio dei Ministri, da ministro degli esteri, dare anche un senso di ottimismo per quello che è l'economia italiana nella sua componente internazionalizzata e di azione verso il resto del mondo. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, cominciamo tra pochissimo. Adesso sentiamo i titoli di Sky TG24. Una sparatoria a New York, l'autore un impiegato licenziato, il suo capo una delle vittime. La strage di Utoya Breivik, 21 anni, per la corte è sano di mente. Avete contro Conte, giustizia non a proprio uso, confermo la fiducia a Palazzi. Maledetto doping, Armstrong non si difende più, rischia la revoca dei 7 tour. Samaras alla Merkel, chiediamo tempo per respirare, il cancelliere rispettate gli impegni. In corso da oltre 8 ore il Consiglio dei Ministri, in agenda le misure per la crescita. Siria a Terzi, a Sky TG24, garantire rispetto dei diritti e pensare al dopo Assad. Celeste torna a sperare, ripresa a Brescia la cura di staminali per la bimba. 800 24 00 24, tra poco in diretta con le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms, facciamo il traffico, torniamo tra poco. Allora, non ho capito, abbiamo già il nostro primo ospite? Sì, allora lo salutiamo, Albano Carrisi, buonasera. Buonasera a tutti. Oh, finalmente, eravamo preoccupati perché lei c'ha le prove di uno spettacolo e temevamo di non riuscire a parlare con lei. Come va? Invece ce l'abbiamo fatta, visto? C'è il concerto stasera? Dove? C'è un concerto qui, praticamente a Scala, che è una frazione di Salerno. Di Ravello. Di Ravello, siamo sempre comunque in Campania. Sì. Nella con costiera, un meravigliosa. Impressionante. Certo. Con una giornata eccezionale, con qualche elicottero che è costretto ad andare per cercare acqua per buttarla su incendi dietro questi monti. Con un po' di invidia da parte nostra, che siamo qua a Milano, però vabbè, questa ce la teniamo tutta. No, ma dicevo, sì. Il punto era questi piromani, sì, che non lasciano in pace la natura. Insomma, sono... Nessuna ragione lasciando... Stiamo lasciando veramente un grande senso di sconcerto. È una delle cose più incredibili, incomprensibili e terribili, questa dei piromani. Giuro che pensavo che Nerone fosse morto 2000 anni fa, ma mi sa che ha lasciato parecchi figli in giro. Reincarnazioni maledette. Albano, noi l'abbiamo convocata per questo, sì. Per questa, vogliamo chiamarla querelle o comunque anche polemica tra la sua ex moglie Romina, è intervenuto anche lei, e la giunta pugliese su questa questione delle acque di Manduria. Sì. Perché Romina ha scritto una lettera a Vendola dicendo di non capire questo intervento, l'assessore, un intervento che prevede, credo, lo scarico delle acque di un depuratore nel Golfo di Manduria, e c'è stata una risposta un po' sprezzante da parte dell'assessore competente, che ha detto: lei si occupi del qua qua qua. Allora Albano lancia in resta, è partito e è intervenuto, una cosa fra l'altro che le fa onore, in difesa dell'ex moglie. No, io più che difesa dell'ex moglie, sono in difesa del territorio, che è la cosa più importante. Cioè, da pugliese, da uomo che ama da sempre la natura, da uomo che ha avuto il privilegio di nascere in un'Italia sana sotto quel tipo d'aspetto, io ho il dovere, come padre, come cittadino, come essere umano, di capire che succede intorno a casa mia. Ma anche se succedesse le porte di Genova, sono comunque cose che danno male. Attenzione, non dimentichiamo quanti danni ha fatto per esempio l'Ilva, e non voglio puntare il dito, cioè, c'è sempre leggerezza nel fare le cose, si possono fare quelle cose affidandosi in parte ai uomini di scienza che creino le possibilità per avere un mondo più pulito, un mondo più sano, un mondo migliore, e lo possono fare. Quindi sottolineo, non è né in difesa della moglie, l'avrei fatto anche se fossi stato te a fare una cosa del genere, nel senso, come fare a stare indifferente a un cambio di destinazione di mamma terra? Anche il fatto che abbia usato la canzone del qua qua qua per denigrare l'assessore. Ma il qua qua, secondo me, non l'hanno ancora capito, perché il qua qua era dedicato a tutta la gente che in quel periodo frequentava il Montecitorio, e ci hanno lasciato un'Italia che sappiamo, la stiamo vivendo oggi. Ci hanno lasciato un'Italia e la stiamo vivendo oggi. Cioè, chiaro, con una canzone tu non cambi le sorti del mondo, nessuno pensa che una cosa del genere potrà mai essere possibile, però ognuno nel suo mestiere si applica affinché, per dire, attenzione che i fanali sono accesi, i riflettori sono accesi. E in questa lettera, per tornare all'inizio di questa questione che la sua ex moglie Romina Power ha fatto a Vendola, lei dice, tra l'altro, di esprime apprezzamento per Vendola, non ce l'ho con lui, anzi lo stimo molto, ho creduto in lui, eccetera. Lei condivide questi giudizi, diciamo, sulla figura, la persona di Vendola, oppure Vendola un po' meno? Ha dimostrato di essere un grande, non devo essere io, sono i suoi gesti, la sua conduzione politiche dell'andamento Puglia lo ha dimostrato, insomma. Certo, poi come tutti gli esseri umani tutti abbiamo la possibilità di avere in qualche errore, l'importante è non perseverare. Però su questa questione io devo dire che non ho capito esattamente, perché c'è, si parla il depuratore in sé per sé dovrebbe essere una cosa positiva, perché va a depurare le acque e gli scarichi, però il fatto che poi queste acque nere, che dice Romina sarebbero delle acque, e lo dicono anche alcuni ambientalisti locali, perché non volete in sostanza questo depuratore lì a Manduria? Non è che non vogliamo il depuratore, tutti abbiamo il dovere di capire che cosa succede con un depuratore lì a Manduria e perché dovrebbe scaricare lì. Veramente è l'ultimo angolo di paradiso, secondo me, che si trova in Puglia. Io ci vado spesso a fare il bagno in quella zona là, è veramente un regalo dal cielo. Allora io voglio capire queste cacchio di acque dove vanno a finire e che fanno. Lo voglio capire, lo voglio sapere, lo devo sapere. Ma perché c'è stato anche in passato da parte della regione, della giunta, altre decisioni sbagliate sul fronte dell'ambiente, quindi c'è un po' di scarsa fiducia, oppure è semplicemente perché su quella questione detto, lì ci volete vedere? Tu l'hai detto. No, tu l'hai detto ed è così, ripeto, tutto lo scandalo Ilva. Ma perché hanno aspettato 52 anni? Certo. Doveva nascere sul... Doveva succedere sul nascere. È giusto avere lavoro, è giusto procurare lavoro, ma non devono procurare un lavoro per morire prima. Devono procurare un lavoro affinché si stia meglio, si possa godere la vita. Io sono passato 100 volte dall'Ilva per motivi di lavoro, eccetera, ma ti giuro che è come entrare, non l'anticamera, nel cuore di un inferno. E la gente ci vive, mangia, respira, bene, si mangia le cose, cioè, e poi sappiamo quanto quanta gente muore di cancro lì. Cambierà qualcosa secondo lei, Albano, o a questo punto, visto quello che è successo, visto l'intervento della magistratura? Quindi l'intervento della magistratura è benvenuto, perché ha smosso finalmente qualcosa. Tanto, è il ritardo che mi impensierisce, quindi. È il ritardo che mi impensierisce, perché ci dovremmo volere un po' di più bene. Questo è il mio punto di vista, facendo le cose fatte bene, in nome dell'umanità, in nome di una società, in nome del lavoro, ma soprattutto in nome dell'ecologia. La prima domanda quando si scava qualche cosa deve essere l'ecologia, cos'è? Che facciamo? A chi sto facendo il danno? E perché dovrei farlo? Cioè tutte queste domande che sono indispensabili nella vita di una società. Certo. Va bene, noi abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza su questo, almeno sentendo la viva voce dei protagonisti. Io non ce l'ho con nessuno, ma lo sottolineo, né voglio entrare in polemica, né... Beh, però l'assessore è stato un po' sprezzante, secondo lei, mi sembra questo abbia detto chiaro. L'assessore è stato un po' troppo sprezzante, questo sì. Io finché non parlo con lui non posso dire niente, perché siccome conosco il mondo dei giornali come è fatto, sì. E che è una frase, già una fuoriuscita del genere, hanno detto Albano si vuole conciliare, c'è niente di tutto questo, io mi associo con chi ha lo stesso tipo di idea, e non guardo il colore dei partiti, però non lo guardo, la gente deve essere di valore, assolutamente di valore, al di là del partito che rappresenta. Perché comunque dal punto di vista del colore politico, per esempio con Romina non eravate proprio sulla stessa sponda, forse, o sì? No, vabbè, lei è una politica convinta, io sono anch'io sono una politico convinto e anche a partiti, se vuoi, però sto attento e voto a chi mi piace, che mi ispira fiducia, indipendentemente dal colore che rappresento, insomma. Tanto ormai diciamocelo chiaro e tondo, l'ideologia lo cantava molto bene Gaber, l'avevo cantato anch'io in qualche modo, il colore della terra è un colore, come la bandiera della terra è un colore, non ce l'ha, insomma. E, voglio dire, non è fattore di partito, è un fattore di uomini con la U maiuscola, uomini che amano l'umanità. Manca questo tipo di gente. E secondo lei, visto che parla di uomini, mi viene proprio così spontaneo a fare la domanda, gliel'avranno già fatta sicuramente, visto che Albano è una persona che ama anche parlare delle cose pubbliche, e gli uomini che sono al governo attualmente rispetto alla classe politica in generale, li vede come più simili a quello che diceva lei o no? Sono dei freddi tecnici oppure hanno più a cuore l'Italia? Se hanno preso i tecnici vuol dire che hanno dimostrato una specie di blackout, stiamo pagando dei danni veramente pazzeschi, vedi queste ruberie gratuite nonostante tutto rimangono lì a rappresentare, cioè delle cose che in altri paesi del mondo non succederebbero. Allora che Dio ci guardi da quelli che ci vogliono sfruttare, che Dio ce ne guardi bene da coloro che dovrebbero rappresentare noi, invece rappresentano loro stessi, invece lavorano per il loro partito, cioè bisogna lavorare per gli italiani, comunisti, socialisti, fascisti, tutti devono lavorare per gli italiani affinché l'italiano stia bene, ed è per quello che li votiamo, non per leggere poi per esempio Roma ladrona e poi ti scopri che insomma è uno strano paesaggio politico che non ti ispira fiducia, e quando comincia a mancare la fiducia incomincia a cadere una società, incomincia a franare una società. Vai per le strade, vedi immondizia dappertutto, ed è quello il primo segnale. Non ti dico quando vai nei bagni delle cose da te, cioè, ma di quando siamo al terzo mondo qua? C'è l'Italia, la culla della civiltà, ed è rappresentata così? C'è qualcosa che non va, ma dove non va? Non per il gusto di lamentarsi, me ne guarderei bene, ma il gusto di sottolineare quello che vediamo sotto i nostri occhi. Certo che se ognuno così chiude nel proprio orticello, comincia la fine, insomma. Senta Albano, abbiamo tirato un po' per le lunghe, io so che poi lei è impegnato nelle prove. Io le volevo fare anche una domanda sulla storia dell'Ave Maria cantata perché vabbè, è stato per qualche giorno su tutti i giornali al matrimonio di Michele Placido. Ce l'ha un minuto per raccontarci? Ne avrei fatto proprio a meno, cioè, di raccontarcela, allora, o di cantarla? Faccio la, no, ecco. Ti faccio la cronaca. Michele mi aveva invitato al suo matrimonio, c'era una serata che è venuta a me, ho detto: Michele, vengo. Allora ho letto sul giornale: ah, canterà l'Ave Maria. Vabbè, se me lo dice attraverso un giornale, mi piace molto il fatto, perché l'hanno anticipato, cioè qualcuno ha scritto quello che lei avrebbe cantato senza, esatto, che, esatto, senza averglielo io, chiesto. Normalmente quando lo faccio a sorpresa, no? Magari dico anche che non vado a qualche matrimonio di un mio amico, ma io nel frattempo mi sto organizzando con il mio pianista e all'improvviso, quando è l'ora giusta, vado e canto. E diventa di un'emozione unica. Qui invece evidentemente qualcuno ha cantato prima il Risveglio del Gallo e mi sono trovato con una serie di polemiche, semplicemente perché uno da amico vuole dedicare da amico un brano classico, religioso, perché Gounod, l'Ave Maria di Gounod, è religiosa già la musica che è stata costruita su una musica precedente di Bach, il clavicembalo ben temperato. Gounod poi ha sviluppato questa Ave Maria che è straordinaria e non vedo perché poi il veto. Ma attenzione, questa canzone io l'ho cantata, questo brano classico religioso, l'ho cantato di fronte al Papa, di fronte a Madre Teresa di Calcutta, l'ho cantata con Montserrat Caballé nel Duomo di Milano, l'ho cantata nel Duomo di Riga. Però poi è riuscita a cantarla anche al matrimonio di Michele Placido alla fine. Ma qual è? Finalmente, no, ma non per portare, voglio dire, nessuno ha detto no, nessuno, lì mi sento dire un no, ma perché? Allora, ma perché? Perché no, diceva Iannacci, perché cosa le ha detto il prete? Perché no? Comunque, morale della favola, siccome Dio dall'alto guarda un po' tutto, appena sono arrivato, purtroppo con ritardo, Michele ha fatto: canta, canta, è già tutto a posto. Ok. E poi è nata la polemica che è nata, perché evidentemente, non lo so, non rimango senza parole. Gli argomenti potrebbero essere tanti, ma a me ne basta uno solo. Perché in tutto il resto del mondo sì e lì a Cisternino no? Non lo so, perché? Qual è la motivazione che si è dato Albano? Ma non lo so, ma lasciamo, che sono polemiche, io sono stufato, cioè casco sempre nelle polemiche, non ho voglia di creare neanche l'idea di una polemica. Va bene, via, finiamo l'estate tranquilli e andiamo stasera al concerto a Ravello. No, non è a Ravello, esattamente dove? Scala. Nella zona di Ravello, siamo sulla costiera amalfitana, godiamoci la serata, grazie Albano per essere stato con noi. E buona serata. Buona estate e buon tutto. Grazie. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra pochissimo adesso le informazioni dalla borsa. 18:33 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori. Sentiamo le vostre telefonate, i vostri interventi. Cominciamo con Maurizio che ci chiama da Roma all'800 24 00 24. Buonasera. Buonasera Maurizio, prego. Buonasera, salve. Sì, stavo sentendo prima la canzone Questo è il ballo del Cacquà, che è perfetta per i politici che abbiamo, è proprio adatta, perché non fanno altro che parlare, però vivono, come dicevo ieri alla sua collaboratrice, vivono in un altro mondo. Io ho una piccola impresa di 5 persone, sto mandando a casa tutti, tutta la zona industriale della zona dei Castelli Romani dove vivo io, ha chiuso praticamente tutti. Questi continuano a parlare, a dire cose che non realizzeranno mai. Questa è una situazione che è alla catastrofe, nessuno se ne sta rendendo conto. Ma lei perché ha chiuso? Io perché non riusciamo più ad andare avanti? Perché io prima avevo un utile del 15-20% su un lavoro, adesso ho un utile dell'8%, il 9%, i fornitori non pagano, le banche ci mangiano vivi con gli interessi al 9-10%. Non si può più portare avanti un'impresa, fai un errore, arriva la Guardia di Finanza, ti fa 6, 7, 10 mila euro di multa, come ridere, per una bolla sbagliata o un documento errato. Cioè questi non si rendono conto che noi, il ceto medio è finito. Io intanto che aspettavo voi, mi sto tagliando il prato a casa, perché non ho più i soldi per poter far venire qualcuno a tagliarmi il prato. E quindi quel qualcuno non prende più i miei 15, 12, 16 euro l'ora. Di cosa si occupa la sua azienda? Io costruisco aziende vinicole. Costruisce aziende vinicole? Le progetto, le realizzo, le avvio. Ma insomma, il settore vinicolo in Italia dovrebbe essere ancora abbastanza florido. Il settore vinicolo di certe zone d'Italia va alla grande, il settore vinicolo di altre zone d'Italia è morto. è morto, perché il vino, produrre, noi, hai idea di come stanno i produttori di uva? Qui pagano le uve 12, 13, 15 euro a quintale. Per trattare un vigneto ce ne vogliono 20 e gliene danno 15. Quando glieli danno? Perché le cooperative sono col gas alla bocca, non riescono più a pagare le uve. Cioè la situazione non è quella che si sente nei giornali economici. La situazione, io parlo per almeno di tre regioni, perché sono le regioni dove sono io, che è Campania, Lazio e Umbria. Ma scusi, non è che la situazione che viene descritta nei giornali economici sia diversa da quello che dice lei? Si parla continuamente di cifre negative, di crisi. Io sto parlando dei politici, non di quello che è la realtà. La politica dice: adesso vi salviamo. Mi scusi un attimo. La riforma della Fornero delle pensioni dice: spostiamo le pensioni avanti di 8 o 9 anni. Ma io come lo assumo un giovane se non posso mandare in pensione un anziano? Con quale criterio pensa che un'industria o un piccolo imprenditore invece di una persona ne paghi due? Ma come fa? Anche volendo. Adesso se si defiscalizzano, come dicono, il lavoro, è uguale il discorso, perché io non posso assumere, o se assumo devo assumere in nero per cercare di risparmiare il più possibile. Quindi preferisco non assumere, perché oggi assumere in nero significa andare incontro a dei rischi che ti fanno chiudere. Allora io sto cercando di salvare il salvabile, e tanti come me ci provano, ma non ci si riesce. Va bene, grazie Maurizio da Roma per la sua testimonianza, per il suo intervento. Andiamo a Lores, che ci chiama da Vicenza. Buonasera. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ha ragione il signore che stava parlando adesso. E a parte i politici, anche tantissime... Adesso, a parte lei, tantissimi giornalisti non capiscono proprio niente. Sembra che stiano anche loro in un altro mondo. Mi sembra che stiano solo dentro ai giornali o solo dentro la radio o la televisione. E dopo passano per la strada di corsa senza rendersi conto cos'è il mondo veramente. Lei ha aperto con qualche discorso del sindacato, non mi ricordo più che sindacalista era. Buonanni, Buonanni, a proposito di Monti. Ecco, sì, Buonanni, ma comunque uno vale l'altro. Nel paese più sindacalizzato d'Europa, per non dire del mondo, c'è la classe operaia più povera, più tartassata e più proprio più a pezzi di tutto il mondo, veramente. Parlo del mondo industrializzato, naturalmente. Poi parliamo un po' dei soloni, dei politici ignorantoni come sono, capaci solo di rubare e basta. E della burocrazia italiana, naturalmente tutto quanto, i ministeri, tutto, i politici sono delle pedine, servono solo ai burocrati per mangiare, e di conseguenza mangiano anche i politici, perché finché avremo dei politici ignoranti, incapaci, che vanno in un ministero e non sanno neanche parlare, non sanno neanche leggere, come mai faranno a capire i conti, capire dove vanno i soldi? Beh, adesso che non sappiano fare i conti, non sappiano parlare, i conti in tasca loro, sì, per vedere quanto viene in tasca loro, quello stanno, abbiamo visto, no? Poi quei cretini lì che sono lì da 20 anni, che ancora vanno alla televisione, alla radio, perché loro non sono lì per andare nei ministeri, per andare in Parlamento, alle Camere, no, loro sono lì soltanto per andare, aspettano solo per andare a... Vabbè, Lores, non ci tolga i politici che vengono alla radio, perché, o anche gli altri, perché sennò metà della programmazione di Radio 24 sparirebbe. No, è giusto fare informazione e parlare di tutto con tutti. Vabbè, comunque, insomma, lei ha detto la sua con un po' di amarezza. Gerry da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Senta, io, come tutta la maggior parte degli italiani, siamo abituati che quando prendono un politico con le mani dalla marmellata, lui si scusa dicendo: a mia insaputa mi hanno infilato la mano nel vasetto. Comunque, visto, aspetti Gerry, che poi la faccio continuare, visto che siamo partiti così anche stasera a gamba tesa sui politici, è anche colpa nostra, perché spesso mettiamo in campo notizie non positive, negative. Invece stasera, più avanti, faremo sentire una bella notizia che riguarda il taglio dei costi della politica, una cosa vera, fatta, realizzata, piccola, in una città del centro, non dico nient'altro, però lo volevo dire. Gerry, prego. Allora, sì. Io ho sentito l'altro giorno l'intervento di Formigoni a Rimini, no? sì. Evidentemente, trattando oil for food, gli deve essere rimasto dell'olio sotto le scarpe, per cui questo tizio ogni tanto scivola. Ma come si può fare? Ma l'arroganza con cui ha attaccato i magistrati, ma è una cosa vergognosa. Io non voglio dire è colpevole, è innocente, su quello ho una mia idea, è colpevole e basta. Però, ma come si fa a attaccare in una maniera così violenta i magistrati? Ma questo non ha rispetto per nessuno. Pronto? Va bene, Gerry, ha detto la sua anche su Formigoni. Grazie, grazie anche a lei, buona serata. Andiamo a Riccardo che ci chiama da Lucca. Buonasera. Dalla provincia di Lucca. Sì, buonasera. Prego. Complimenti per tutto. Senta, pronto? Sì, sì, la sentiamo. Non è molto importante. Non è molto importante, eh? Riccardo, noi la sentiamo bene, se vuole parlare. Va bene, allora non è molto importante, però volevo rispondere a Albano per l'Ave Maria. Sì, sulla questione dell'Ave Maria, sì. Riccardo, non continua a dire pronto, noi la sentiamo, vada avanti. Mio padre era tenore nel cuore del Reggio di Torino e andava a cantare i matrimoni degli amici e parenti. Però l'Ave Maria era già 25 anni fa, era proibita cantarla in chiesa, perché era considerata blasfema. Io non l'ho capito perché, però era così. Eh sì, va bene, Riccardo, tra l'altro non sentiamo neanche benissimo, grazie. Marcello da Bari, buonasera. Buonasera dalla provincia di Bari. Sì. Mi riferivo alla telefonata con Albano. Sì. Probabilmente sulla questione del depuratore di Manduria bisognerebbe fare un passo indietro e collegare questo progetto al progetto del dissalatore di Manduria che è naufragato, era ritenuto un'opera strategica dalla regione Puglia, ma purtroppo era stato scelto il luogo sbagliato. Cosa c'entra il dissalatore con il depuratore? Perché probabilmente i progetti sono collegati, cioè nel senso che nel momento in cui il dissalatore di Manduria non si fa più è assolutamente necessario fare il depuratore per mantenere degli equilibri, come dire, finanziari e politici nella zona. Forse questo andrebbe... Cioè lei dice che il depuratore si fa soltanto per questioni politiche? Diciamo che le due opere erano una partita unica. E forse un'inchiesta giornalistica approfondita potrebbe aiutare. Vediamo, sì. Voleva dire solo questo o qualcos'altro, solo Marcello? Questo, poi sì. È chiaro che diciamo i depuratori si devono fare, ci mancherebbe altro. Il problema è che in Italia i depuratori si fanno e non vengono gestiti nella maniera dovuta e quindi è come se non si facessero. Peraltro da quelle parti c'è un esempio anche importante di un depuratore che funziona col recupero delle acque reflue, che è un'altra cosa importante perché non si capisce mai perché si facciano i depuratori che di solito sono sottodimensionati rispetto alla popolazione, le tenga conto che Manduria aumenta di 5 volte l'estate rispetto all'inverno e non si fanno mai poi gli impianti che affinano le acque reflue, quindi che possano riutilizzare le acque reflue in agricoltura. Va bene, grazie Marcello per questo suo intervento sulla questione anche del depuratore di Manduria. Andiamo in provincia di Rieti, questa volta cerchiamo di essere precisi, dove c'è Bianca Maria, buonasera. Buonasera, senta, prima di tutto le devo fare i complimenti per la sua pacata conduzione che non ci fa rimpiangere Parenzo e Cruciani, senza togliere nulla ai simpatici Cruciani e Parenzo. Esatto, non togliamo, sì, va bene, Bianca Maria, prego. Senta, io volevo intervenire su Monti che ha redarguito e secondo me ha giustamente con i giornalisti che chiamano furbi, furbetti gli evasori fiscali, sì. Quando invece veramente bisognerebbe chiamarli ladri, perché questo è il vero nome. Sono ladri però, vede Maurizio, che gli va sempre bene, perché se ci ricordiamo i grandi evasori, quando, per esempio, non so, si ricorda Valentino Rossi, il compianto Pavarotti e questi grandi evasori, patteggiano con l'Agenzia delle Entrate, pagano molto meno del dovuto perché si mettono d'accordo, e ecco qui sono tutti contenti. Mentre in America, beati loro, c'è il carcere per l'evasore fiscale. Sì. Quindi vede, bisognerebbe, perché vede, fare contro l'evasione fiscale, sì, per carità, la parola ladro, oppure fare spot pubblicitari sulla TV pubblica, sa, non è questa la, secondo me non è che facciamo tanto per combattere queste evasioni. Beh, invoca insomma la mano più pesante sulla lotta all'evasione fiscale. La mano più pesante e non avere pietà, perché questi cosa fanno? Patteggiano con l'Agenzia delle Entrate, pagano molto meno. Va bene, grazie Bianca Maria, abbiamo capito, grazie. Facciamo una pausa per il traffico, anzi prima salutiamo il nostro prossimo ospite, Patrizio Mecacci, segretario metropolitano del PD fiorentino, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Perché insomma bagarre in casa del PD non ce ne sono e non stupiscono, però quando mi si divide anche il PD fiorentino, cioè nel cuore dell'insediamento politico del PD in Toscana, a Firenze, allora è un tutti contro tutti, altro che Guelfi e Ghibellini. Fa notizia se il segretario metropolitano del PD si dissocia da Renzi. 800 24 00 24 per intervenire in diretta anche questa sera. Intanto siamo in compagnia di Patrizio Mecacci, come detto, segretario metropolitano del PD di Firenze. Mecacci, abbiamo letto questa sua dichiarazione, questa intervista di qualche giorno fa, credo mentre preparava introduceva i giornalisti alla festa del PD a Firenze. Sì, ecco. Sì, qui alle Cascine. Alle Cascine. Io sono toscano. Ho provato a mettere una C per bene. Però non è venuta fuori. No. Mecacci, lei ha detto che in caso di vittoria di Renzi alle primarie, non ha detto che ci si debba amare per forza in casa a Firenze, però insomma, lei addirittura non appoggerebbe Renzi perché non lo convince, neanche se dovesse vincere le primarie. Prima di tutto le chiedo cosa farebbe, cioè voterebbe per un altro partito pur di non votare per Renzi? No, io ho detto che non lo so se mi convincerà e non so se lo sosterrò, nel senso che volevo puntare anche il dito sull'assenza di un programma compiuto, perché finora ho assistito a molte battute, alla presentazione di un libro che sta raccogliendo anche interesse, ma che credo non parli di una proposta politica per il centro-sinistra e per il governo del paese. Quindi l'oggetto della mia attenzione è in particolar modo su questo, quindi non è un non voterò Renzi mai e poi mai, ma dico soltanto che oggi non sono a conoscenza di una proposta politica. Il libro Renzi ha scritto un libro, no? Già il secondo, sì, tra l'altro. Forse lì qualche barlume di programma ci sarà, qualche idea per il futuro. Lei ha letto questi libri? No, io non li ho letto le recensioni e devo dire che mi sono bastate per capire che si parlava d'altro, cioè che Secondo lei non si parlava, però scusi, se non ha letto come fa a dire che non conosce il programma di Renzi? Magari dentro il libro c'è un po' di programma politico di Renzi. Un po', per quello non che... lo so, io non l'ho letto nemmeno io. No, quindi ci prendiamo insieme l'impegno di leggerlo, per quello che leggo dalle recensioni che talvolta aiutano a introdurci nella lettura dei libri, mi sembra che si parli molto di aneddoti sulla nostra città, perlomeno così io avevo capito e capisco anche da. Cioè, per lei Renzi è un politico un po' troppo leggerino, cioè fa molta immagine, fa dichiarazioni, interviste, parla di tutto, ma non di programmi politici, cioè non dice qual è la sua idea, per esempio, per il futuro, eccetera. E questo è troppo leggero come politico. Ad oggi io penso che sia insufficiente. Quello che ho ascoltato non lo condivido, insomma, non mi convince molto. E aspetto, spero di capirne anche di più, però per quello che ho visto fino ad oggi. Ma non è che così facendo nel PD vi rinchiudete in un recinto, perché abbiamo letto che quest'anno non c'è spazio per l'Italia dei Valori alla festa del PD, perché basta, Bersani ha rotto con Di Pietro, quindi niente di Italia dei Valori. Adesso critiche a Renzi, sappiamo che c'è una polemica aperta anche con Bersani, perché forse va troppo al centro per i vostri gusti. Vi va bene soltanto che cosa, Mecacci? Ma noi non è che ci vogliamo rinchiudere, noi dobbiamo parlare al paese, abbiamo proposto un percorso lungo di impegno, anche di fatica per ricollegare la politica ai cittadini, per portare le nostre proposte in mezzo alle persone. Qui per 25 giorni parleremo di politica tutti i giorni in 120 iniziative, parleremo di tutto, ci saranno anche esponenti di altri partiti, anche dell'Italia dei Valori, perché in Toscana governiamo anche con l'Italia dei Valori, e parleremo di cose. Anche il confronto che a volte può essere rappresentato come se fosse tra persone, non è questo, è su un'idea di futuro. Cioè, secondo lei, di per esempio, il confronto, insomma, l'alleanza con l'Italia dei Valori dovrebbe andare avanti? Ma io questo non lo so, perché penso anzi che sia un po' difficile, perché per come si sta posizionando soprattutto Di Pietro negli ultimi mesi, mi sembra che sia l'Italia dei Valori a volersi porre fuori dal centro-sinistra. Quindi lei distingue tra la politica locale, dove si può fare questa alleanza, e quella nazionale, dove invece le posizioni di Di Pietro non portano avanti questa alleanza. Però tutto è partito. Sarà bene che sia l'Italia dei Valori anche a chiarirsi le idee, perché mi sembra che sia una discussione aperta anche al loro interno. Sì, questo sicuramente sì, anche sulla leadership di Di Pietro, forse all'orizzonte addirittura. Sì. Tutto però, questa sua uscita, Mecacci, è nata partendo dal discorso delle primarie, perché sappiamo che Renzi si è candidato alle primarie del PD, cioè Bersani, però io non ho ancora capito, quest'estate abbiamo chiesto a tutti, ma le primarie del PD ci saranno o no? Perché mi sembra di capire che dipenda anche dalla legge elettorale, poi parliamo anche di quello che si prefigura, perché se non c'è candidato premier forse non ci sono neanche le primarie, o sbaglio? Io penso che ci saranno e che daranno un'indicazione sulla leadership del centrosinistra e della coalizione del centrosinistra, non soltanto per quello che riguarda il Partito Democratico, altrimenti avremmo dovuto fare un congresso e secondo le regole che il nostro partito ha già. Noi abbiamo deciso di metterci anche al servizio della ricostruzione di un centrosinistra credibile, di farlo mettendo a disposizione anche una leadership come quella di Bersani, che 3 anni fa aveva già ottenuto una forte legittimazione popolare con le primarie. Quindi credo che si debba ragionare anche in maniera molto aperta con movimenti civici, con esperienze di movimenti, associazioni che sono emerse in questi anni e che possono aiutarci anche a ricollegare le persone alla politica in un clima di sfiducia pesante, che però ha dei segnali molto positivi. Ma lei ha seguito il dibattito sulla, cioè le novità sulla questione della legge elettorale? Perché se si va, come sembra, verso un modello che alcuni esperti definiscono il modello greco, cioè coalizioni da fare dopo il risultato elettorale e possibilmente anche coalizioni ampie, perché il premio di maggioranza di per sé non basta senza veri collegi uninominali a dare, diciamo, la governabilità in mano al principale partito. Se si va verso quello, allora come si fa a fare le primarie del PD prima senza sapere con chi ci si allierà dopo, se con l'UDC, se con Futuro Libertà, se addirittura di nuovo col PDL o con Sel di Vendola? È un po' difficile o no? Io credo che noi dobbiamo rivolgerci perlomeno al nostro campo, che è quello dei progressisti, e organizzare il nostro campo. Poi in Parlamento vedremo, anche a seconda della legge elettorale. Penso sia stato intelligente da parte del Partito Democratico dire che le faremo, ma anche darci il tempo di capire in quali condizioni politiche saremo allora, cioè quali saranno le regole del gioco, soprattutto quelle che regolano le prossime elezioni. Ma non penso che debbano mettere in discussione le scelte che abbiamo preso. C'è un ascoltatore che mi chiede di chiederle cosa ne pensa della macro regione del Nord. Credo malissimo, Mecacci, o no? Non ho una posizione precisa sulla macro regione del Nord. Penso che se dobbiamo mettere le mani a una ristrutturazione dello Stato, anche mettere mano a livello regionale possa essere una strada. Insomma, ci sono regioni che sono più piccole di tante nostre province che mettiamo in discussione, per esempio, in questi mesi, e di questo si parla poco, e invece penso se ne debba parlare. Quindi penso che se si può aggregare anche su quel versante, andiamo avanti, studiamolo. Cioè nell'ottica della semplificazione? No, sì. Non ho capito. Cioè nell'ottica di aggregare e quindi di diminuire certi livelli. Oggi noi chiediamo alle province di fondersi, di unificarsi, ma restano regioni che sono più piccole delle attuali province, quindi non capisco perché non si possa mettere mano anche a una semplificazione delle regioni. Perché Per esempio? Per esempio il Molise, io non capisco che cosa esista. Cosa fa il Molise? Sì, se posso sommessamente permettermelo. O anche l'Umbria. Per esempio. Perché il Molise è del PDL, l'Umbria è del PD. Ma anche l'Umbria, sì. A volte abbiamo governato anche il Molise. E quindi potrebbe esserci un'aggregazione di centro, del centro Italia. Sulla base di macro regioni, io credo si possa, credo se ne possa. Quindi questo parlare. Potrebbe essere un bel terreno di dialogo con la Lega, assolutamente. Ma la Lega ha delle stanze autonomiste che noi dobbiamo recuperare. E se c'è un partito del federalismo e deve esserci un partito del federalismo, penso che questo possa essere il PD, perché noi nelle autonomie locali e con le autonomie locali abbiamo dato anche prova di governo, mentre a volte sul piano nazionale ci siamo incartati e gli elettori ci hanno anche giustamente punito. Quindi penso che ripartire da lì ci possa aiutare. Mecacci, l'ultima cosa che le voglio chiedere: ma voi a Firenze, alla festa del PD, alle cascine, come ha detto poco fa, l'avete invitato un esponente dell'Italia dei Valori o avete, in ossequio al richiamo nazionale, avete evitato anche voi? C'è un esponente dell'Italia dei Valori, sicuramente, è quello che mi ricordo, sono 120 iniziative in 24 giorni. E ci sono 120, che... almeno uno dell'Italia dei Valori ci poteva stare. Sì, è un assessore regionale alla cultura, è festa nazionale sulla cultura e sull'informazione, e quindi c'è ovviamente anche l'assessore. E la FIOM? La FIOM non è invitata direttamente a partecipare ai dibattiti, sono invitati i sindacati confederali regionali, CGL, CISL e UIL, ma abbiamo volontari delle aziende metalmeccaniche del territorio che faranno attività alla ruota. Va bene, Mecacci, dobbiamo chiudere, purtroppo ci abbiamo da dare purtroppo la linea al giornale radio. Grazie, buona serata, più tardi dopo le notizie del GR. 19:16 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, in diretta sino alle 20:30, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, ci sono già alcuni ascoltatori in linea, cominciamo con i titoli del TG3. Vertice Merkel-Samaras, Satene rispetti impegni e scadenze, il premier greco non vogliamo altri soldi, la BCE altri interventi dopo la consulta tedesca. Lungo consiglio dei ministri per discutere i piani per la crescita, unica decisione secondo indiscrezioni la sospensione delle tasse per i paesi terremotati. Nuova protesta degli operai dell'Alcoa dopo il blocco dell'aeroporto, alcuni operai si gettano in mare per impedire al traghetto di attraccare. Anders Breivik, uccise quasi 80 persone a Utøya, è sano di mente, condannato a 21 anni, il massimo previsto in Norvegia. Tragica sparatoria in pieno centro a New York, a due passi dall'Empire State Building, licenziato al lavoro, spara contro i colleghi, due morti. Il presidente della Federcalcio Abete, duro con Conte, quando si è protagonisti in negativo si riscopre la giustizia a proprio uso e consumo. Armstrong rinuncia ad opporsi ai processi antidoping, per il campione della bici squalifica vita e revoca delle 7 vittorie al Tour de France. Qualche messaggio stizzito al 349-238-6666 per l'intervista di Mecacci, il segretario metropolitano del PD di Firenze, che ce l'ha con Renzi. Dovrebbe rispettare anche l'elettorato che sceglie Renzi. Sì, dovrebbe. Però sai, i politici dicono quello che vogliono, giustamente, ci si scontra sulle idee, sulle prese di posizioni, quindi non è questione, credo, di mancanza di rispetto per quegli elettori, è dire quello che si pensa. 800 24 00 24, ci ha chiamato Carlo, che chiama da Isernia, buonasera. Buonasera a lei, prescindo dai complimenti, in quanto la trasmissione più o meno ha lo stesso stampo, lo stesso modo di essere, però lei come conduttore è più ricettivo e più temperato, i colleghi bravissimi sono molto più aggressivi, però la zanzara punge sempre, anche se con meno veleno. Va bene, senta, grazie. A me ogni tanto vengono delle strane idee. Innanzitutto non sono abituato a criticare, ma piuttosto a suggerire, come sto per fare con lei, e semmai sarà fanta economia, fanta politica. Dunque, io penso ai cassa integrati, intendo quelli veri, quelli che si sentono frustrati, abbattuti, insomma, in una situazione non molto piacevole. Non parlo degli altri, che per l'arte di arrangiarsi semmai fanno il fabbro, il meccanico, il falegname. Quindi quelli depressi. Perché piuttosto che stare dietro le mogli in casa o al bar, birra, caffè, gratta e vinci, possono andare volontariamente, secondo me, dal datore di lavoro e proporre. Noi siamo, diciamo così, pagati dalla società, non vogliamo rimanere a casa, perché il lavoro è anche interloquire, interrelazionarsi, si parla di sport, si prende il caffè insieme, fateci lavorare, non vogliamo nulla, tu contentati di meno profitto e produciamo solo in modo che il prodotto, non so, una sedia, invece essendo solo materiale e non valore, come si dice, manodopera, non valore aggiunto, può costare da invece che 50 a 30 euro. Così vorrei arrivare alle automobili, invece che da 10 a 15 euro al chilo, parlo di Franco Fabbrica, possono uscire a 5-7. Naturalmente questo per coloro che volessero in una zona limitata e per un tempo limitato. Carlo, vediamo se gli ascoltatori apprezzano la sua proposta. Perché di idee ne ho 10.000, solo che impazzisco. Potrebbe aprire un'agenzia di idee. Guardi, un elenco così mnemonico, le bretelle per le mutande dei bambini, che devo dire, le cose non, come si chiamano? Vabbè, le adesso però mi scusi, sulla luna. È sceso un po' in basso, era partito con una proposta economica. No, ma è meraviglioso, è un'idea molto pratica. Le bretelle per le mutande dei bambini. Sì, se vuole, però preferisco parlare di cose più serie. È stato lei a tirare in ballo questa cosa. I pannelli solari sulle scarpate dell'autostrada, guarda caso si chiamano del sole. Le scorie atomiche, come si chiamano, nucleari sulla luna. Non lo so, i doppi tacchi alle scarpe. Carlo, metta su una pagina su internet, vedrà che qualcuno Sono capace. Se la faccia fare da qualche nipote. Grazie, buona serata, grazie. È un'idea anche questa. Salutiamo Nello Musumeci, candidato alla presidenza della regione Sicilia per la destra e aggiungo, credo, anche ci spiegherà per tutto il centrodestra. Buonasera Musumeci. Buonasera a voi e a chi ci ascolta. Candidato per la destra, il partito di Storace, però c'è stato l'appoggio del partito di Miccichè e anche del PDL, è ufficiale, quindi lei è candidato anche del PDL e di tutto il centrodestra, perché sono notizie di questi giorni. Sì, la professione di convergenza è stata fatta, io sto verificando se fra il dire e il fare c'è di mezzo il male. Oppure c'è di mezzo un rigagnolo e si supera e siamo a posto. Bravo, eccolo. Bravo. Senta Musumeci, questa sfida tra lei e Crocetta rischia di diventare interessante, rischia perché delle sfide politiche non è che sempre sono interessanti, diciamocelo, perché lei milita in un partito, lo dice il nome, la destra, che ha una chiara connotazione ideologica. Crocetta lo stesso viene dalla sinistra, è stato dei comunisti italiani, i Verdi, Rifondazione eccetera, quindi lei è tanto di destra quanto Crocetta è di sinistra e viene fuori una bella sfida, no? Beh, io sono della destra politica che da 20 anni in Italia condivide responsabilità di governo. Sono stato il primo presidente di provincia in Italia eletto direttamente dal popolo quando ancora non c'era l'alleanza nazionale. E con Alleanza Nazionale ho governato per 10 anni la provincia di Catania e adesso con la destra di governo, proprio la destra di Storace, penso, assieme ai movimenti autonomisti e ai partiti nazionali, di poter determinare una svolta nella guida politica della Sicilia. Il mio obiettivo non è sfidare Crocetta, il mio obiettivo è sfidare questo maledetto destino che vuole la Sicilia terra di mafiosi, di corrotti, di parassiti e di rassegnati. Noi dobbiamo rimuovere questo luogo comune, perché è un luogo comune assolutamente falso che molti utilizzano per denigrare la nostra terra. Cioè, è un luogo comune che in Sicilia c'è la mafia, non ho capito. No, questa non è solo terra di mafiosi, non lo dica a me che sono stato infatti. Tra l'altro mi scusi se la porto ancora per un attimo su Crocetta, poi parliamo del suo programma e della Sicilia, perché mi piace questa sfida e forse è solo una mia cosa personale, però ripeto, anche lei sotto scorta per intimidazioni mafiose, così come Crocetta, due persone che dicono le cose chiaramente per quello che pensano. C'è qualcosa che lei ammira di Crocetta, per esempio? Ma io conosco poco Crocetta, ho grande rispetto per il suo impegno civile e politico, mi auguro che questo rispetto sia ricambiato. Ci siamo incontrati soltanto una volta, quindi dell'uomo e del suo impegno politico quel che conosco l'ho appreso attraverso i giornali. Se Crocetta impegna la sua fede politica è nella trincea dell'antimafia, certamente va apprezzato per quello che fa. La stessa cosa credo che facciano tantissimi siciliani, milioni di siciliani, ognuno nel proprio ruolo. Questo mi sembra interessante, sì. L'importante è che dell'antimafia non se ne faccia una professione. Ecco, io credo che in Sicilia, più che essere predicata, l'antimafia vada praticata nel dovere del silenzio, giorno dopo giorno. Lei ha parlato di una svolta in Sicilia e di cambiare con alcuni luoghi comuni, eccetera. Però mi spiega rispetto al governo lombardo che c'è un giudizio negativo ampiamente diffuso, se no non sarebbe conclusa l'esperienza. La stessa domanda, se lei la facesse a Crocetta, le risponderebbe come le rispondo io. Guardi, negli ultimi 15 anni in Sicilia non c'è una sola forza politica, dalla destra alla sinistra, che non abbia condiviso responsabilità di governo. Se io oggi volessi cercare una forza politica che non abbia governato la cosa pubblica in Sicilia negli ultimi 15 anni, dovrei andare su Marte, il che è impossibile. Però il famoso 61-0, adesso l'esperienza di Lombardo è passata anche attraverso il sostegno del Partito Democratico, però c'è stata una preponderanza, e tra l'altro non è un caso che Lombardo credo che appoggi lei, non Crocetta. Guardi, quello che farà Lombardo ancora è indefinito. Temo che sia indefinibile, perché Lombardo è l'anima tipica di un centrismo che sa adattarsi alle circostanze. Ma lei i voti di Lombardo li vorrebbe oppure dice no, non mi interessano i voti di Lombardo? È Lombardo che deve puntare su di me, non io sul Lombardo. Ma se Lombardo puntasse su di lei, lei non avrebbe nessun problema ad allearsi con lui? Potrei avere solo i voti, in verità, perché ormai non ha più neanche il partito, non è più neanche segretario del suo partito, e il voto di Lombardo lo gradirei, perché no? Mi pare che in questo momento Lombardo sia corteggiatissimo dalla sinistra, mentre per quanto mi riguarda ha fatto professione di convergenza verso il mio progetto sicilianista. Io accetto i voti di tutti, purché non siano voti contrattati e barattati, e purché non siano voti provenienti o condizionati da poteri loschi, da poteri mafiosi. Quindi anche quelli di Futuro e Libertà, per esempio, li accetterebbe i voti, perché loro sembra di capire che sono ancora indecisi se fare una granata, se appoggiare addirittura a Crocetta. Potrebbe essere un esperimento, ha detto Bocchino proprio qua ai nostri microfoni, inedito, di un'alleanza PD-UDC Futuro e Libertà, oppure? Come vede, lei parla di personaggi che hanno governato la Sicilia in questi anni. Granata è stato vicepresidente di Cuffaro, poi è stato nella giunta nella maggioranza che ha sostenuto Lombardo. Crocetta, il partito di Crocetta, ha governato assieme a Lombardo negli ultimi anni in Sicilia, assieme agli uomini di Fini. Come vede, questa Sicilia gattopardesca non può essere riconducibile ad uno schema politico tradizionale. No, questo ce ne siamo accorti, perché è complicatissima la vostra politica. Ecco, bisognerebbe, quindi quando lei cerca chi non abbia mai condiviso responsabilità di governo, ecco, dovrebbe andare davvero su un altro pianeta. Io cerco chi ci vuole stare. Sì. La garanzia della rottura col passato si chiama Nello Musumeci, che non ha mai fatto parte né del governo. Questo è un bello spot, Musumeci. No, nel senso che uno potrebbe tagliare questi 10 secondi e farlo sentire. No, per carità. Però le vorrei chiedere un'altra cosa, mi scusi. Collegando la sua esperienza di politica in Sicilia con le dichiarazioni fatte anche da Storace e credo anche da Miccichè, cioè sul fatto di dire creeremo dei partiti localistici anche in altre regioni italiane, quindi è l'inizio di una serie di questa esperienza. Ma la destra un tempo non era per l'unità della patria, dell'Italia, è per partiti nazionali? Adesso invece che cosa è cambiato? È fuori discussione che l'offerta politica che arriva da Roma appare assolutamente inadeguata e imperiosa. Questo lo si registra da una decina d'anni. Senza voler mettere assolutamente in discussione la sacralità e il valore dell'unità nazionale, non c'è dubbio che i partiti strutturati centrali Abbiamo un problema con l'audio. Abbiamo un problema con l'audio, Musumeci, glielo dico, perché se no lei sta dicendo sta rispondendo a questa cosa e non l'abbiamo sentita. Proviamo a vedere. Sente? Sì, adesso la sento, prego. Ecco, chiedo scusa, forse ero io che mi ero spostato perché sono in una zona d'ombra. Sì. Volevo dirle che l'offerta politica che arriva da Roma in periferia appare assolutamente inadeguata. E allora è bene che i partiti nazionali si attrezzino su base regionale. Lo statuto della destra prevede autonomia regionale, sia amministrativa, sia progettuale, sia strutturale, sia finanziaria. Quindi il messaggio lanciato da Storace è soltanto la fase pratica di un concetto che è già consacrato nello statuto del partito. Ma e se io le dicessi che invece potrei pensare che è proprio l'autonomia della Sicilia, per esempio, ad avervi portato, visto che lei è siciliano, sull'orlo del fallimento? Io le dico che lei ha ragione, perché io non sono fra quelli che dicono che l'autonomia debba essere la foglia di fico per conservare e per nascondere le vergogne di una classe dirigente che ha fatto tutto quello che c'era da fare per depretare e saccheggiare la Sicilia. E allora? E allora voglio dire che dell'autonomia noi dobbiamo cogliere l'aspetto della opportunità, la prerogativa, non il privilegio. L'autonomia intesa come responsabilità, come opportunità di crescita, non come protesi per riabilitare le mediocrità di una classe dirigente di farisei mercanti di ogni cosa. Senta Musumeci, le voglio chiedere ancora una cosa, non abbiamo molto tempo perché poi dobbiamo dare la linea alla borsa. L'esperienza della scorsa, quando lei si candidò e prese il 5% alle... Non me ne rubi di voti, 5,3. Non le pesa un po', come anche se adesso ovviamente l'appoggio politico è completamente diverso, non le pesa un po' come precedente? È come se fossero passati 2000 anni, e se mi consente, quello è uno spot. Io mi presentai allora perché non volli condividere la candidatura del presidente Cuffaro, che era già rinviata a giudizio, chiedo scusa, e dice che un presidente di regione deve stare al di sopra di ogni sospetto. La mia fu una candidatura di testimonianza e di servizio per non far parte di quella maggioranza che inesorabilmente dopo 2 anni dovette abbandonare gli scanni di Palazzo dei Normanni perché la magistratura arrivò all'epilogo di quella dolorosa vicenda. Quindi essermi candidato 5 anni fa per me è stato un privilegio. Ecco, posso dire oggi, col senno di poi, di avere compiuto una scelta di grande responsabilità. Va bene, grazie, buona serata Musumeci. A voi, grazie dell'ospitalità, buonasera. 19:36 minuti, cari ascoltatori, aspettiamo i vostri interventi all'800 24 00 24, insieme fino alle 20:30, quindi c'è ancora molto tempo per le vostre telefonate. Abbiamo sentito l'intervista a Nello Musumeci, candidato per la destra di Storace, ma anche per tutto il centrodestra, PDL incluso, in Sicilia, un eloquio tagliente. È una grande capacità di argomentazione di Musumeci, anche se non ho capito come si faccia a sostenere che l'autonomia è allo stesso tempo una cosa che può portare al fallimento, come nel caso della Sicilia, e invece essere anche un valore, perché la destra è un partito che punta a creare su scala nazionale anche altri movimenti locali, localistici. Questo è almeno quello che ha detto Storace e che Musumeci ci ha in parte confermato. 800 24 00 24. Andiamo a sentire Enrico, che ci chiama da Verona. Buonasera. Sì, buonasera. Ecco, volevo fare un piccolo intervento per quanto riguarda il debito pubblico, nel senso che ormai da un anno e passa, da 2 anni, sentiamo parlare di questo debito pubblico e di questa crisi che c'è, che si vede, che si sente. Però il discorso è: ma da dove deriva? Cioè, chi l'ha fatto questo debito pubblico? La risposta solita che viene data comunque a tutti quanti è: sì, l'abbiamo fatto noi, ma chi? Noi chi? Nel senso, cioè, parlo per me o parlo per i miei genitori, andiamo ad acquistare una casa o una macchina o un'automobile, la paghiamo, facciamo un mutuo e poi paghiamo con gli interessi. Cioè, io non capisco perché ci sia effettivamente il debito pubblico, ma chi è stato a farlo? Il discorso è quello. cioè quello non riesco io sinceramente a capire, cioè sì, le hanno fatto le banche, sono fallite eccetera, ma allora perché siamo ancora qui a sottostare o comunque a dipendere sempre dalle banche? Ho sentito anche prima un signore che ha fatto un intervento prima che diceva comunque appunto che chiedono sempre più interessi, ma non si può arginare questo, cioè, questo genere di atteggiamento, io non capisco, cioè sinceramente non lo so. Va bene Enrico, grazie. Intanto su Repubblica.it, Consiglio dei Ministri passa, nessuno scontro con Grilli, tassa ai terremotati prorogata la sospensione, tanto per vedere un po' le sintesi di questa lunga riunione di 9 ore del Consiglio dei Ministri. E va bene, dove andiamo? 800 24 00 24, ci chiama Sergio da Monza, buonasera. Buonasera, innanzitutto complimenti per la conduzione. Grazie. Personalmente rispetto a quella del suo collega abituale. Una riflessione che nasce da 3 interventi di questa sera. La prima è quella del politico di Firenze. Il suo intervento rappresenta quello che è la politica. Si parla di politica e politica e basta. Un secondo intervento è quello dell'imprenditore del centro Italia, quello che si occupa di aziende vitivinicole. Aziende vinicole, sì. Sì. Lui invece rappresenta l'economia reale, quella di cui realmente noi dobbiamo parlare. E il terzo è il commento e l'intervento di tutti quanti che si lamentano che le cose non funzionano e le cose non sono mai andate. Ecco, la somma, la conclusione di tutto questo sta nel fatto che il vecchio sistema politico non funziona, però l'altra cosa è che siamo noi che ci dobbiamo candidare, siamo noi che dobbiamo rinnovare la classe politica, perché se altrimenti si autoalimenta questo sistema, non cambierà mai. Non cambierà mai perché l'abbiamo visto perché nei sondaggi anche di Radio 24 la stragrande maggioranza delle persone vuole la diminuzione dei parlamentari e solo grazie a questo governo tecnico noi abbiamo avuto la riduzione di un sesto dei parlamentari. Ecco, cioè è molto distante la politica, il vecchio sistema dei partiti, da quello che vuole realmente l'Italia, da quello che vogliono i cittadini. E io penso che i politici non sono tanto migliori di noi, anzi la gente normale a questo punto è migliore, quindi non ci dobbiamo sentire inferiori, perché non candidarci, perché non possiamo dare il nostro contributo reale. Io sono anche un po' stanco di sentire la gente che critica, che accusa questi politici che non fanno nulla, però è arrivato il momento, ormai non ce n'è più, è il momento di rimboccarsi le maniche. Non ho capito la questione della riduzione di un sesto del numero dei parlamentari, a cosa si riferiva esattamente? Che solo in questa legislatura finalmente si è arrivati a ridurre un minimo il numero dei parlamentari per la prossima legislatura. Sbaglio? Ma sì, credo che si tratti di norme ancora da approvare definitivamente, un po' come la questione delle province che si è proceduti all'accorpamento ma deve essere ancora fatto. Poi c'è da vedere se ci sarà la riforma della legge elettorale, se toccheranno anche il numero dei parlamentari, però appare difficile. Grazie comunque. 800 24 00 24, dove andiamo? Verso Genova, Giuseppe che ci chiama dalla provincia di Genova, buonasera. Buonasera, buonasera. Prego. Sono in linea? Sì, la sentiamo forte e chiaro. Grazie. Giuseppe. Buonasera, volevo dirle complimenti per la trasmissione perché è meno naif del suo predecessore, diciamo è un po' più montiana, visto che è di attualità. Evasione fiscale, se ne parla come del nemico numero uno, però se noi paghiamo le imposte intorno al 60%, per pagare scorte da circa 900.000 euro in 2 anni per un signore che si fa, non so se è un autoritratto o qualcosa del genere sulla maglietta, mi sembra che stiamo uscendo dal seminato. Quell'altro signore che si appropria di circa 20 milioni di euro è ancora libero, cittadino, e noi parliamo di evasione fiscale, parliamo di maggiorazione delle imposte, parliamo di evasione. Tra l'altro l'evasione fiscale è un falso problema, perché lo Stato comunque le tasse le incassa, le incamera. Poi da chi è un altro discorso? Premetto che io sono un lavoratore, quindi pago le mie imposte totali. quindi lo Stato le incassa, poi da chi è un altro discorso. Se incassassero tutto, si mangerebbero tutto quelli, io sono di questa idea. Poi province, sì, dovevano essere eliminate, un pochino sì, un po' no, non si sa ancora. Sono città da 4, 5, 10, 20 milioni di abitanti, noi abbiamo le regioni con 700-800 mila, forse potrebbero essere accorpate, non accoppate, accorpate. Parlamentari, si parlava di dimezzarli, quel signore che mi ha preceduto dice ma un sesto sono stati ridotti, assolutamente no, è un disegno in itinere, chissà come e quando passerà, se passerà. Vabbè, le do Giuseppe, anche i dati, sì, finanziari, proprio perché la gente non sa. 4 anni fa ci avevamo 1650 miliardi di debito, nel 2011 siamo arrivati a 1950 miliardi. Lo spread veleggiava tra i 20 e i 30 punti base nel 2008, quando ci fu il cambio di governo, siamo arrivati con la caduta del precedente governo a 575 punti e deve scendere in campo il Salvatore della Patria. Va bene, grazie Giuseppe per questo suo lungo intervento. 800 24 00 24. Andiamo a Carbonia, ci chiama Enzo, benvenuto. Buonasera, grazie dell'opportunità. Io sono intervenuto diverse volte su questo argomento, soprattutto perché sono convinto che se non si fa una norma, una legge, che chi fa la politica, soprattutto chi ha incarichi di Presidente del Consiglio, deputati, senatori, che limiti massimo a due i loro mandati, non cambierà niente in questo paese, perché alla fine questi sanno benissimo che avendo fatto favori una vita a destra e a sinistra hanno un potere tale per cui si ricandidano e vengono eletti. Quindi il ricambio della classe politica in questo paese non potrà mai avvenire se non ci sarà un limite di mandati. Un esempio tipico quello che è successo in Sardegna, dove siamo andati a votare noi in Sardegna 1.600.000 abitanti, 8 province. Voi immaginate una provincia, quella dell'Ogliastra, di 54.000 abitanti, una cosa incredibile, perché diventare presidente di una provincia significa guadagnare 4.000, 5.000 euro al mese, è una cosa decisamente scandalosa. Tanto è vero che, come vi ho detto, siamo andati a votare il referendum, abbiamo vinto il referendum con il 97%, quindi avrebbero dovuto abrogare le province. E cosa è successo? Si sono riuniti tutti assieme. Tra l'altro, oltre ad abrogare le province, avrebbero dovuto ridurre il loro appannaggio. Cosa è successo? Sono riuniti di notte, si sono rivotati l'appannaggio e le province sono ancora lì. I presidenti addirittura continuano ad assumere persone e questo va avanti sino a che, e ripeto questa mia quasi ossessione su questo limite di mandati, perché avendo fatto politica, essendo un interessato di politica, ho visto come funziona. E funziona che se loro non sono obbligati per norma, va per bene, legge, Enzo, ad andarsene, grazie, non questo l'ha già detto, da. Grazie. E per un caso come quello, per esempio, delle province in Sardegna, poi staremo a vedere cosa deciderà la regione sull'abolizione e la scomparsa delle province. E invece avevamo annunciato un caso virtuoso e allora lo salutiamo, il nostro ospite, il sindaco di Viterbo. Buonasera Giulio Marini. Sì, buonasera a voi. Perché per una sera non è uno spot, per una volta vogliamo dare una buona notizia sul fronte, perché poi naturalmente trattasi anche di piccola cosa se vogliamo, però sul fronte dei costi, della politica, ogni tanto qualche segnale arriva, bisogna anche guardarli, accoglierli positivamente da parte dei cittadini e capire con chi si ha a che fare, distinguere caso su caso e vedere di cercare di capire. Vi siete tolti l'indennità, lei e gli 8 assessori, un colpo di sole? No, i 10 assessori. Lanza diceva 8. No, 10 assessori, sì, no, perché due sono in ferie, quindi arriveranno lunedì, quindi faranno... Tornano dalle vacanze e scoprono che non c'è più l'indennità. Non è un lavoro questo, quindi infatti però... ritornerò al mio posto di lavoro. Qual è? Io sono dipendente della Camera di Commercio, farò il sindaco e il dipendente della Camera di Commercio. Come ci spieghi perché, come siete arrivati e poi ci dica anche quanto vi siete tolti su quanto, cioè l'intera indennità o una parte? L'intera indennità. Allora, quindi spieghiamo bene la notizia, ce la dica lei. Oggi che cosa? Allora, io ieri per primo, questa mattina l'intera giunta ha rinunciato volontariamente all'indennità di carica di sindaco e di assessore. Perché proprio adesso, sindaco? Perché dobbiamo andare a applicare l'IMU e abbiamo voluto dare con questo gesto, ripeto, lo dico nella mia contrarietà dell'applicazione dell'IMU, abbiamo voluto dare questo gesto per far capire che prima di far pagare ai viterbesi l'IMU e oppure eventualmente ridurre i servizi, prima riduciamo quello che è il costo della politica. Quindi diciamolo chiaramente, voi dovete applicare l'IMU, dovete fare come tutti i comuni, e ci sono queste tasse che non, lei dice non ci fa piacere metterle, allora diamo un segnale, ci togliamo l'indennità, e quanto andate a risparmiare? 105.000 euro. Che non saranno milioni, però insomma... No, è infinitesimale nei confronti dell'IMU, però è il gesto. Io in questo momento sono stato in un paesino in provincia di Viterbo a inaugurare una biblioteca, e alcuni cittadini si sono avvicinati facendomi complimenti del gesto. Bastava il gesto, e questo credo in questi momenti di sacrifici, credo che la gente possa quella di buon senso capire che è soltanto un gesto. Sì, senta, sì, visto che poi siccome non si è mai contenti, no? Allora io le faccio una domanda che immagino molti avranno in testa, e dice perché non glielo domanda, ma se tutti facessero così, quindi diciamo incarichi come questo di sindaco di una città medio piccola, però insomma non parliamo di un paesino, Viterbo, no, comunque parliamo di 65.000 abitanti, parliamo comunque di una città, è un lavoro delicato, complesso, che uno va a fare gratis? In questo momento sì, però perché ritornando al mio posto di lavoro avrò 48 ore di permesso per fare il sindaco e dovrò svolgere la mia attività nelle 48 ore di lavorative del mio posto di lavoro e più i pomeriggi quando sono libero, il sabato, la domenica. Cercherò di giostrare il mio tempo con queste condizioni. A questi livelli bisogna pure reagire con metodi probabilmente che nel passato si sarebbero trascurati. Insomma, diciamo che l'ideale resterebbe poter avere uno stipendio da sindaco e occuparsi a tempo pieno di una città comunque di 60.000 abitanti che lo meriterebbe, però data la situazione questo è quello che voi avete deciso di fare. Cioè, dato... Non è che potevo chiedere ai miei assessori di rinunciare all'indennità di carica e io rimanevo con l'indennità di carica, sarebbe stato sicuramente iniquo nei confronti loro, il primo esempio l'ho dato io. Rammento a lei e ai radiospettatori che io ero deputato anche fino al 12 gennaio, quindi mi sono dimesso per paventata incompatibilità a gennaio da deputato e sono rimasto sindaco. Oggi mi annullo anche l'indennità, quindi credo che sia un esempio da non sicuramente emulare, perché naturalmente ognuno deve reagire e agire come meglio crede, però credo che comunque sia un esempio che in questo momento possa far capire che nella politica non c'è solo cose negative. Ecco, esatto. Senta, un'altra cosa, sarà anche questa piccola cosa, perché se ce ne vuol parlare, la Viterbese milita in che serie? Serie D? In Serie D, quindi non parliamo della, cioè non è appetibile come il biglietto per andare a San Siro a vedere il Milan e l'Inter. Bravissimo. O come il Pescara, abbiamo intervistato qualche sera fa, la battaglia dei consiglieri comunali che vogliono andare allo stadio a tutti i costi, però anche su questo fronte avete tolto la possibilità per i consiglieri, ci spieghi, di andare allo stadio. No, qui probabilmente ci sono fattori emulativi che probabilmente a volte sono presi in maniera sbagliata, nel senso che allo stadio a Viterbo, cioè, ci vanno 6 amministratori di maggioranza e 2-3 di minoranza. Le assicuro tranquillamente che tutti pagano il biglietto, perché tutto sommato poi non ci sono quelle difficoltà che si possono avere a San Siro, all'Olimpico, c'è una, cioè, il costo del biglietto sono, della tribuna centrale sono 14 euro, non c'è questo tipo di difficoltà. Però nell'ondata populistica che in questo momento invade il nostro paese, sono cose che fanno discutere, che fanno parlare, che fanno comunque sia dibattito. Ma io ho detto anche un'altra cosa l'altra sera parlando col consigliere, con un consigliere comunale di Pescara. Ho detto che se il comune è, come è in molte città, titolare del, di questo rapporto, di questo contratto dello stadio, di questa concessione che viene data alla società, il fatto stesso di non avere elementi di commissione, cioè questa regalia dei biglietti che poi diventava appunto una forma quasi di scambio, rende più credibile sicuramente il comune, la giunta, i consiglieri nel pretendere poi dalla società di calcio il rispetto delle regole, delle norme, della sicurezza, della concessione dei tributi, tutto quello che si vuole. Quindi al di là della questione degli spiccioli, che possono essere anche meno spiccioli, o del privilegio, c'è forse anche questo elemento di trasparenza. Sì, ma no? guardi, non è cosa nostra, perché le dico tranquillamente, io facevo l'abbonamento quando ero presidente della provincia e lo pagavo 500.000 lire e lo faccio ancora adesso allo stesso numero che era quello di quando stavamo in Serie C1 e ha lo stesso numero di allora, che è il numero 1. Quindi le dico tranquillamente, me lo pagavo quando costava 500.000 lire, me lo pago adesso ancora che costa 100 e qualche e qualcosa. Ho detto stamattina a un giornalista locale, ho detto guardi, io non fumo, l'unico vizio è lo stadio, andare a vedere la partita della Viterbese, quindi me lo posso pure permettere di pagarmi il biglietto. Va bene, grazie. Allora, buona serata, Giulio Marini. A lei, grazie. Sindaco di Viterbo. Grazie. E questa era la notizia, insomma, avete sentito. 800 24 00 24, tanto per non dare sempre cattive notizie. Già che ci siamo, annunciamo la ripresa anche a settembre del programma di cui mi occuperò il sabato e la domenica a mezzogiorno su Radio 24, in cui di buone notizie si parla, si può fare. Sabato la domenica alle 12 su questa radio, però questo non c'entra nulla. 800 24 00 24, abbiamo Pasquale che ci chiama da Napoli, buonasera. Buonasera, prima di tutto voglio fare i complimenti al sindaco di Viterbo, non mi faccio auguri, questa volta li faccio al sindaco. Bene. Niente, io sono in evasore, non mi vergogno di dirlo che evado, perché lo Stato me lo impone di evadere. Volevo rispondere alla signora che ha parlato prima, che per la versione, la galera che ci vogliono. Allora, se io non evadessi, il problema sarebbe che dovrei chiudere e mandare tutti i miei dipendenti a casa. Lei è un'azienda? Sì, un'azienda, c'ho un ristorante. Purtroppo lo Stato me lo impone per le troppe tasse. Io non so a fine mese chi pagare, se gli operai, le tasse, le energie elettriche, il gas, l'acqua, i rifiuti, non lo so chi pagare. E quindi pagare tutto non è possibile, non è un'ipotesi che lei prende in considerazione, perché dice lei non ce la farebbe. L'ultima cifra, quella che resta a lei, verrebbe negativa. Ma è assurdo. Allora io sfido la signora, vorrei fare una domanda. Se l'azienda Alcova, quella che ci sa per chiudere in Sardegna, se avesse avuto le tasse eque, secondo lei avrebbe chiuso? Ma non lo so se l'Alcova ha chiuso per le tasse, io credo che non c'entri molto la questione delle tasse. Perché se sono andate le aziende, ma sono scelte industriali, gruppi stranieri che vanno e vengono. Io sono d'accordo con la galera, per quelli che si arricchiscono non pagando le tasse, lì sono d'accordo. Io lavoro 18 ore al giorno, 17 stamattina sono via dalle Trise, dal mercato del pesce per comprare il pesce. Adesso sto lavorando, lavoro fino a mezzanotte, ho lavorato 19 ore. E portarmi che cosa? 1.700-1.800 euro a casa al mese, per non farmi le ferie da 19 anni. Ma certo che bisogna fare delle distinzioni, almeno io parlo per me, poi allora, la signora non so cosa vuole dire. Socio mio di maggioranza senza che mi ha dato un centesimo, tu essere socio mio, allora mi devi dare l'energia elettrica non pagare, il gas non pagare e l'acqua non pagare. Allora sei socio mio, io ho investito io, tu non mi hai dato niente, sono andato io a banco, ho rischiato di lavorare mio padre che prima di questo mese se n'è andato. Ha rischiato il suo bene per 60 anni di lavoro. E che cosa? Per fare che cosa? Per dare lo Stato, soldi allo Stato senza che io sappia cosa ne fa. fa bene il sindaco di Salerno, il sindaco di Salerno è così limpido che ogni due mesi mette sopra il comune l'incasso fatto dai grattini del parcheggio e dice per questi due mesi l'incasso che facciamo piazza Matteotti per dire un nome e fare la gara d'appalto, quindi è limpido, ma qua di limpidità non c'è niente. Vabbè, non c'è niente, forse è un po' eccessivo Pasquale, non è che non c'è niente, cioè lei ha dei figli, li manda a scuola e la scuola è pubblica, no? Pasquale? Ma dove sta la limpidità? Che io dopo 18 ore al giorno non so nemmeno quando mi ritiro e cosa ho guadagnato. Va bene, questo l'aveva già detto Pasquale. Glielo ripeto, ma non è assurdo una cosa del genere. Comunque le faccio i complimenti. Grazie. E a lei per la sua attività, magari pagando se possibile tutte le tasse che può. TG1. Di riunione del Consiglio dei Ministri sul tavolo strategie per lo sviluppo, il ministro Passera, non c'è crescita senza rigore. Il premier greco Samaras, Atene ce la farà ma dateci più tempo, la Merkel però non fa sconti e dice c'è ancora molto lavoro da fare. Legge elettorale, i partiti alla ricerca di un'intesa, prossima settimana decisiva, Bersani no a grande coalizione dopo il voto. Siria, sono 200.000 i profughi in fuga dalla guerra, al TG1 il ministro degli esteri Terzi lancia il vertice di Roma per il dopo Assad. Celeste, 2 anni, ha ripreso la cura con le staminali, martedì la sentenza sulla terapia, il padre, non abbiamo mai perso la fiducia. Ciclismo, Armstrong non si difende dall'accusa di doping, non ne posso più, dice, ma sono pulito, revocati 7 Tour de France che ha vinto. Esce la prossima settimana l'inedito duetto di Lucio Dalla con il giovane cantautore Paolo Simoni, la canzone si intitola Io sono io, tu sei tu, ecco le immagini della registrazione del brano. Questo dunque era il TG1, più avanti sentiremo anche qualcos'altro, la 7, intanto sentiamo Luca che chiama da Brescia al nostro numero verde 824 0024. Luca, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Allora, sì, io chiamo in riferimento alla signora che si riferiva alla legge per gli evasori fiscali negli Stati Uniti. Sì. E poi a ciò che ha detto il signor Pasquale poco fa. Sicuramente sono d'accordo con la signora, anzi calcherei un po' la mano a riguardo, essendo un piccolo imprenditore, devo dire che per noi imprenditori che paghiamo le tasse, che facciamo di tutto per riuscire a pagare dipendenti, fornitori e pagare tutte le tasse che dobbiamo pagare, è veramente una presa in giro sentirci dire che oggi un imprenditore non riesce a vivere a causa delle tasse. Se un imprenditore non riesce a vivere a causa delle tasse, deve cambiare lavoro e andare a fare dipendente. Ah, sua è una posizione forte. Certo, anche perché c'è la concorrenza sleale, no, nei suoi confronti. Ma cioè, certo. Il signor Pasquale, sì, che lavora 19 ore al giorno, che come dipendente potrebbe guadagnare tranquillamente 10 euro netti in busta paga al giorno, allora si farebbe 190 euro. Ma lei di cosa si occupa? Al giorno. Materiali per edilizia. Ovviamente sono dell'idea che un imprenditore deve creare, un imprenditore deve rischiare, un imprenditore lavora davvero, sì, 18 ore al giorno quando serve, ma un imprenditore deve guadagnare perché deve avere la certezza di pagare i suoi fornitori, i suoi dipendenti, deve costruire un'azienda, deve farla proliferare. E sarei dell'idea che chi evade e viene preso come evasore debba almeno fare 12 mesi di carcere, a dimostrazione che quella persona realmente non ha rispettato tutti gli altri cittadini italiani. Direi un'ultima cosa, se mi permette, io personalmente conosco persone che pur avendo evaso milioni di euro, pochi giorni dopo sono stati presi dalla Guardia di Finanza, erano al solito bar a bere la solita birra. Questo, mi creda, mi fa sentire uno stupido. Mi creda. Va bene, grazie Luca. Sentiamo un altro ascoltatore. Chi sentiamo? Enrico da Milano, buonasera. Buonasera. Sì. Io volevo aggiungere una riflessione sul tema evasori che mi sembra stia interessando parecchie persone. Sono assolutamente d'accordo su quello che ha detto il Premier Monti sul fatto che non debbano essere considerati come furbi coloro i quali evadono le tasse. Tuttavia mi piacerebbe anche sentire da Monti o comunque da qualche esponente politico una simile, un simile attacco a tutta quella gente che pubblici dipendenti, non tutti ovviamente, ma nelle sacche di inefficienza, piuttosto che pensionati che riscuotono una pensione che non si sono guadagnati con il loro lavoro, parlo dei baby pensionati, anche questi signori secondo me stanno bruciando risorse del paese e stanno condannando il paese a questa crisi. Mi piacerebbe pertanto sentire un atto d'accusa come lo sentiamo verso chi evade, ma altrettanto forte mi piacerebbe sentire l'atto d'accusa nei confronti di chi senza merito o senza fatica assorbe un mucchio di risorse del paese. Sì, il problema degli sprechi c'è da tutte le parti, non è che c'è solo l'evasione, però mi scusi, ma se uno è andato in pensione, adesso non si può più, con le baby pensioni, è stato sbagliato, ma gli è stato concesso, era un diritto, è diverso adesso il discorso di non pagare le tasse, o no? Attenzione, no, perché un diritto acquisito, per quanto mi riguarda, è un furto, perché questo diritto acquisito sta portando via un pezzettino del mio stipendio. Questa sì, ma bisogna prendersela però con chi l'ha concessa questa cosa qua, con chi l'ha fatta fare, ma chi più che con chi l'ha... Ormai è morto, sì. Chi l'ha concessa ormai è morto, quindi è inutile prendersela con i morti. Così come... Ma no, sa cosa ufficio... si poteva fare anche nelle manovre di Monti? Un contributo di solidarietà sulle pensioni sopra una certa cifra, perché ci sono pensionati italiani che se la passano bene, perché quando si parla di pensionati si generalizza, ma ci sono anche pensioni sopra i 3.000 tanto per stare molto larghi, euro al mese, 4, ma magari, 5, ma mi scusi, magari questi personale, signori... militari, gente, dirigenti, pluri premiati a due giorni dall'andata in pensione, queste sono tutte cose che si sanno, e su questo secondo me non sarebbe stato uno scandalo chiedere un contributo, però insomma Enrico vuole concludere, sì. Sì, volevo concludere dicendo che questa dei pensionati è una categoria, un'altra categoria è quell'enorme quantità di persone che non fa nulla e che comunque porta a casa uno stipendio. Anche questi ci stanno depauperando. Cioè, secondo me bisogna essere, io penso che si dovrebbe cercare di essere un po' meno generici nell'accusa degli sprechi, nel per parlare di sprechi, e un po' più specifici nel dire anche che ci sono tante persone che di questi sprechi se ne approfittano. Va bene, grazie Enrico, buona serata. Andiamo ai titoli della 7. Quasi 9 ore di riunione per il primo Consiglio dei Ministri dopo le vacanze. Prima Monti avvisa il governatore Visco per fare il punto sui conti. Tante le proposte, poche però le risorse. Ma con Grilli, dice il ministro dello sviluppo Passera, abbiamo sempre trovato soluzioni. Per il tetto anti-spread voluto da Draghi, la Banca Centrale Europea aspetterà le decisioni sulla Corte Costituzionale tedesca sul fondo salva stati, spread che oggi cresce fino a 450 punti ma chiude poi a 430. Sui mercati giornata nervosa, con Milano giù di quasi mezzo punto. Faremo di tutto, dice la cancelliera tedesca Merkel, per mettere Atene nelle condizioni di onorare i suoi impegni. Chiediamo solo più tempo, non più soldi, afferma il premier greco Samaras. Intanto la Spagna nega di aver chiesto il salvataggio all'Europa. Intesa vicina sulla legge elettorale, lo dicono il PD Letta e il PDL Lupi, ma resta da vedere se la riforma porterà dritti al voto anticipato. Per ora il segretario democratico Bersani chiede al governo di cambiare rotta e insiste, dopo Monti deve tornare la politica. Minuti di terrore a Manhattan, un uomo aspetta un ex collega per poi spararli e ucciderlo nei pressi dell'Empire State Building. Subito dopo ha fatto fuoco sui passanti, prima di essere a sua volta ucciso da un poliziotto, ci sono anche 9 feriti. Il 21 luglio dello scorso anno, ricorderete, uccise 77 persone, per lo più giovani, per questa strage. Oggi Anders Breivik è stato condannato a 21 anni di carcere, il massimo di quanto previsto in Norvegia. Il killer di Utøya, considerato dal tribunale sano di mente, non farà ricorso. Minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. Empire State Building, ha detto Sommaiuolo, se uno si mettesse a segnare tutte le sere le piccole imperfezioni, vabbè, ma insomma I titoli della 7 sono lunghissimi, è normale che ci sia qualche sbavatura, però lui regala sempre delle piccole perle, ma ci ridiamo, non c'è niente di male. E poi questo è proprio veniale, perché building, Empire State Building, forse addirittura quando si pronuncia troppo all'americana si esagera. Comunque, insomma, ascoltare i titoli di Somaiolo ogni volta regala piccoli spunti. 800 24 0024, dove andiamo? A Saverio, che ci chiama da Bari, buonasera. Sì, buonasera. Salve. Senta, io ho ascoltato attentamente molte telefonate di cosiddette lamentele nei confronti dei politici, di quello che non viene fatto. Io credo che questo sia un momento della verità alla crisi, nel senso che ognuno deve mettersi di fronte alle proprie responsabilità nelle piccole scelte quotidiane. Parlo dell'evasione, per esempio. Adesso uno dovrebbe essere più attento, non a dire cerchiamo l'evasore, a evitare che diventi evasore, andare a chiedere lo scontrino. Io ho avuto occasione di fare un breve periodo di vacanza in una località balneare, ma vorrei dire, i giovani di oggi, ma non hanno neanche loro il senso di dover chiedere uno scontrino, cioè loro vogliono essere aiutati ma non si aiutano, cioè non hanno una coscienza e un senso civico di dire beh, questo è il mondo mio, mi devo costruire un futuro, ho di fronte a me qualcuno che si è fatto un'impresa ma la sta facendo sulle mie spalle. Cioè lei dice che tra i giovani soprattutto non c'è consapevolezza dell'importanza del... Quasi, non voglio neanche chiamare la rassegnazione, per me è cultura fondamentalmente e poi proprio non voglia quasi, cioè è vero c'è la crisi, indubbio. Vuol dire che non abbiamo ancora raschiato il fondo del barile, perché se no se ci fosse sì, davvero... Purtroppo credo che sì, perché effettivamente guardando altri paesi dove c'è la crisi, poi non sono uno di quelli che dice bisogna andare nelle piazze per forza. Ma però... sa perché è così, secondo me, dico la mia così? Sì. Perché la crisi è economica sicuramente, è occupazionale, però la crisi di cui si parla è crisi del debito, crisi degli stati, e alla gente di questo non gliene frega niente, perché uno poi si fa i conti alla fine del mese, il fatto di pagare o non pagare le tasse, lo scontrino, chi se ne frega, quello che conta poi è il conto proprio alla fine del mese, e quello che accade invece alle finanze pubbliche non gliene frega poco a tutti, e poi questo poi alla fine forse è il vero grosso problema. Non lo so, Saverio voleva concludere? È la cultura del partecipare alla nostra nazione, quello che probabilmente è sempre mancato all'Italia, l'aspetto, come dire, il senso buono del termine nazionalismo. Cioè noi non partecipiamo a quello che è la nostra vita, partecipiamo anzi a quella della nazione, ma quella solo nostra. Se mi torna, cioè ho un tornaconto mio, lo sconto dal medico, se lo faccio la fattura, se faccio fuori. Senta, questo, visto che ho capito il discorso, abbiamo capito, però Saverio, visto che ci chiama da Bari, sulla questione di Manduria, abbiamo sentito Albano, la questione del depuratore, le acque reflue, la lettera di Romina a Vendola, ha sentito, che ne pensa? Ma senta, io purtroppo da quella questione non l'ho potuta seguire attentamente perché ho perso un pochettino il tratto, cioè ho cominciato a sentire dopo che avevate finito di parlare con... Vabbè, con niente, Albano, allora sentiremo qualche altro ascoltatore però pugliese. Posso dirvi soltanto che io sono uno che ha, diciamo, sostenuto, come dire, Vendola, ma un po' di delusione da questo punto di vista nella gestione sia di Vendola che di Emiliano Bari, visto che c'è. Forte proprio. Va bene, grazie Saverio. Grazie a voi, grazie. Buona serata. Abbiamo il traffico, rientriamo tra pochissimo. Intanto c'è un comunicato del governo emesso da Palazzo Chigi dopo il lungo Consiglio dei Ministri di oggi, così, che è un po' sibillino, che dice: una giornata intera dedicata alla riflessione su come mobilitare tutte le energie per raggiungere l'obiettivo della crescita. Tutto e niente naturalmente in questa frase, però così un comunicato di Palazzo Chigi definisce il Consiglio dei Ministri di oggi, terminato alle 19:15 dopo oltre 9 ore di riunione. 800 24 0024 ci chiama Giovanni da Vicenza, buonasera. Buonasera, io sento moltissima gente che si lamenta del personale politico, cioè, non gode più della fiducia di nessuno. Io penso che è il caso che i cittadini in genere, quelli che dicono io sono disponibile a occuparmi delle cose che fanno i politici, facciano una lista. Una lista politica? Una lista per partecipare alle elezioni? No. Se io preparo una lista, io ci sto, lei ci sta, il signore in fondo ha pure, e ci scriviamo questa lista. Quando è ora delle elezioni, qualcuno tira a sorte chi si presenta alle elezioni. Così non c'è nessuno che racconta bugie, non c'è nessuno che racconta favole, che oggi ce n'è uno spreco. Mandiamo gente normale, lei, io, il bottegaro sotto casa, a fare questa cosa qua. Non tanto prendere decisioni del governo, perché del governo ci vuole gente che sa, nel Parlamento, dove serve qualcuno che tenga d'occhio che cavolo fa il governo, dove serve qualcuno che prenda le decisioni di dire al governo, beh, adesso ci serve questo. Giovanni, inizi lei, faccia lei una lista, l'ha fatta la lista lei? L'ho fatta, al momento sono iscritto solo io e un'altra persona. Lei l'ho scritta, l'ho fatta, c'ho anche un sito www.rappresentanzarazionale.it e io chiedo che si cambi, cioè non siamo più contenti dei politici, diciamo io sono disponibile, è una richiesta di partecipazione. Va bene, no. Giovanni, grazie, insomma la sua testimonianza l'ha data e ha dato anche il sito, se qualcuno è interessato. Dove andiamo? A Livorno. Lino, buonasera. Pronto, buonasera. Senta, quando gioca la nazionale di calcio, tutti gli italiani si improvvisano CT della nazionale per fare la formazione. Io invece mi voglio improvvisare presidente del Consiglio. E sarei, secondo me, in grado di risolvere due gravissimi problemi. Sentiamo. Con una sulla legge, sentiamo. Noi abbiamo 2.000 miliardi di debito pubblico, sì, grosso modo, e abbiamo favolose pensioni e favolosi stipendi, sia pubblici che privati. I nostri deputati guadagnano di più di quelli inglesi, di quelli francesi, di quelli tedeschi, nonostante quindi la nostra economia sia più povera, eccetera, eccetera. Ci sono persone che guadagnano 1.300 euro il giorno. Va bene, di quindi pensione. Ecco, io direi di corona, siccome sono assemblee elettive quelle politiche e quindi non si può intervenire perché è un budget privato che la Camera dà, per esempio, io direi tutti gli stipendi che la Camera dà, va bene, cadono sotto una legge nuova che fa lo Stato, che taglia i tetti agli stipendi attuali. Per esempio, un consigliere regionale prende 12.000 euro, si ritiene giusto 6.000, il Presidente della Repubblica prende 46.000 euro, si ritiene giusto 20.000, tutto il rimanente va a calare il debito pubblico solo però mi scusi, ma non crederà mica di abbattere pubblico il debito di 2.000 miliardi solo con gli stipendi dei politici, perché no, è poca politici roba. E privati, Marchionne prende 30 milioni l'anno. Beh, ma non è che possiamo mettere a diminuire tassa, il debito, speciale, lo stipendio di Marchionne. Un certo livello, come no? Coloro che tassa, hanno goduto sì di più dei momenti belli del paese, che ne godono anche ora, su quelli che devono pagare. Che si fa? Alla prima casa si tassa, alla seconda casa? Cioè la famosa patrimoniale, chiamiamola così, un contributo di solidarietà sui redditi alti. Sì, sugli altissimi redditi. Lei aveva detto che aveva due soluzioni. La prima è questa. Amato che prende 1.300 euro. Sì, abbiamo capito, Lino, abbiamo capito. Lei ha detto che aveva due soluzioni. Questa ce l'ha data. Ne ha un'altra? Un'altra perla ci vuole regalare oppure no? Per me i redditi, che poi questa la sapevamo già, sì, devono, io ho tante soluzioni da dare, sì, ma però ce ne i redditi privilegiati sono quelli da cui deve riuscire la diminuzione. Va bene, grazie Lino, buona serata. Davide da Padova, prego, buona serata Davide. Sì, buonasera. Volevo intervenire semplicemente per dire anch'io la mia sulle questioni politiche. Sì. Tanto comunque è tanti anni che ascolto la Zanzara e ce ne sono dette di cotte e di crude. Ma io, insomma, si parte da un presupposto sbagliato, cioè la politica secondo me è esattamente quello che è l'italiano medio. Cioè, si parte da questo presupposto, non è che il politico proviene, non so, da un'altra nazione oppure da un altro ente chissà quale, poi dovrebbe essere questo ente territoriale. Il politico è un italiano ed è semplicemente rappresentativo di chi è l'italiano medio, e cioè mediamente ladro. Cioè, perché questa è la realtà, non è che abbiamo il numero degli avvocati più alto d'Europa, abbiamo tutta una serie di dati statistici che ci fanno vedere come noi siamo effettivamente chi più chi meno. Ovviamente nessuno dirà mai, no, quello che effettivamente fa, come si suol dire, un po' così di nascosto, però effettivamente chi può ruba poco, tanto, mediamente, ma ruba. E questo è il nostro problema. Eticamente siamo fuori. Lei ruba? Io qualcosina, sì, anch'io. Quando posso, diciamo... Ma dove? Al supermercato? No, nelle borse, senso, delle vecchiette o dove? Posso, ad esempio, non pagare il canone della RAI. Posso, ad esempio, fare in modo, ad esempio, che l'idraulico, invece di scalarmelo dalle tasse, non dico magari tutto il 100%, ma magari il 30% della fattura, magari non gliela chiedo, perché non mi conviene. Perché se mi convenisse, gliela chiederei. E così fanno tutti... Sì. Tutti lo fanno, cioè io sono, lo dico, ma perché non sono certo il santo, no? Cioè io non sono quello che dice. Beh, però quando lei ha detto rubano, io pensavo qualcosa di più grosso. No, rubano nel senso che non fatturare l'idraulico, certo, fa parte dei mille rivoli, però non lo definirei. Non pagano giustamente le tasse, cercano di eludere in qualche modo, cercano di fare in modo di far quadrare il bilancio, ma non è esattamente così. Cioè, nel senso che purtroppo c'è un andamento medio molto, molto preoccupante in questo senso. È ovvio che chi ha più possibilità lo fa di più. Questo purtroppo è così. Cioè, se uno andasse anche nelle grosse entità private, andassero a controllare i loro direttori commerciali cosa combinano. Dico nelle banche, oppure nelle grosse società da 2-3 mila persone, così come sono i grossi comuni. Che pensano? Che lì in quelle strutture... Certo, si ruberà un po' di meno, ma c'è veramente un malcostume veramente diffusissimo. Grazie Davide. Andiamo a Giuseppe che ci chiama da Piacenza intanto. Buonasera. Buonasera. Guarda, le volevo dare alcune considerazioni, visto che il governo è stato riunito per 9 ore. Io come Presidente della Camera di Commercio le dico che ci sono 100.000 aziende, quasi 100.000 aziende in Italia, che sono dai 14 ai 15 dipendenti, e tutti questi hanno paura, molti di questi hanno da paura ad assumere, perché se vanno 16 scatta lo statuto dei lavoratori, non possono più tornare indietro. Allora, questo limite di 15 è stato fissato nel 1970, quindi 40 anni fa. Qual è il limite ancora valido nel mondo globalizzato dopo 40 anni? Se lei toglie questo limite e venisse portato a 25, certamente daremmo subito possibilità di lavoro a tanti giovani disoccupati che vengono assunti da queste imprese, che non hanno più questo tappo sopra, che sono veramente spaventati, perché una piccola azienda di 15, se va a 16, gli scatta lo statuto dei lavoratori, ha la commissione interna, ha costi e oneri in più, e per un'azienda così piccola è un guaio grosso, perché poi non può più tornare indietro. Allora, avere degli imprenditori che hanno paura di assumere in un momento in cui abbiamo tanta disoccupazione, credo che sia la roba più assurda che si possa fare. Va bene, va bene. Grazie anche a lei. Andiamo, dove andiamo? A Alessandro che ci chiama da Venezia. Buonasera. Sì, buonasera. Grazie di avermi chiamato. Io volevo dire una cosa, due cose. Allora, sì, principalmente sentendo un attimo le anticipazioni sulla nuova legge elettorale, sembra che se va avanti come appunto dicono queste anticipazioni sarà più difficile ottenere una governabilità per effetto della riduzione della premio di maggioranza convogliato solo sul primo partito invece che sulla coalizione. Quindi un rischio a mio parere di ritornare ai sistemi di prima repubblica, quindi con governi che si sfaldano e che non durano. E quindi mi viene una battuta: se hanno chiamato portellum la legge che prima permetteva in qualche, almeno in un modo magari migliorabile di rendere il paese governabile, chissà come la chiameremo dopo questa legge che non lo rende governabile. Questa è una battuta, ma ognuno dirà la sua, gli darà il suo nome. Sì. Come seconda cosa volevo dire, quando parlano di vendere gli immobili pubblici per abbattere il debito, dico che è un po' la tecnica del figlio al prodigo, nel senso che non ritengo giusto che oggi andiamo a vendere quanto fattamente costruito nel passato dai nostri vecchi, ed è giusto invece cominciare a risparmiare, anche perché andremo a svenderli a basso prezzo perché il mercato è così quello che è, perché abbiamo bisogno di vendere, e finirebbe in mano a solamente quei quattro signori che sono sempre quelli. Vabbè, anche lì bisogna distinguere, però sì, bisogna un po' distinguere, perché Alessandro, perché in realtà c'è nel patrimonio pubblico, c'è di tutto. Ci sono grandissime cose inutilizzate, ingestite, che non serviranno mai a nulla, forse venderle a qualcosa potrebbe servire. Sa, poi siamo un po' alla canna del gas, come finanza pubblica, per cui quello che le dice va bene, ma non è che ci siano molte alternative. Chiudiamo con Marco da Padova, buonasera. Buonasera, volevo evidenziare... Un minuto, perché poi dobbiamo chiudere, grazie Marco. Sì, volevo evidenziare, oggi leggendo sul giornale delle affermazioni di Bersani riguardo la legge elettorale e anche delle critiche sul governo Monti. Ecco, quello, il mio pensiero è solamente che quello che mi fa un po' raccapricciare è che si parla tanto di legge elettorale quasi escludendo quali sono i problemi reali del nostro paese. Si è per scontato che ci siano due forze politiche che si combatteranno per avere, arrivare al potere, senza neanche considerare minimamente che c'è un 20% di elettorato che se ne parla poco, che dobbiamo chiudere, voterà almeno penso il partito di Grillo, no? Va bene, grazie Marco, ci ha messo un minuto a dirlo. Buona serata a tutti e buon weekend. L'appuntamento con la Zanzara naturalmente a partire da lunedì dopo il GR delle 18. Buon weekend. Radio 24, la passione si sente.